36esima traccia. Suo ardente desiderio doveva essere che Harriet ricevesse un disappunto e sperava che quando le fosse riuscito di vederle di nuovo sarebbe stata almeno capace di appurare che probabilità ci fossero. D'ora in poi li avrebbe osservati attentamente e per quanto avesse preso dai deplorevoli abbagli finora, anche circa quelli che aveva osservato, non sapeva ammettere di poter essere accecata in questo caso. Si aspettava ogni giorno che egli tornasse. Ben presto ci sarebbe stata la possibilità d'osservare, terribilmente presto sembrava, quando i suoi pensieri prendevano una certa piega. Frattanto decise di non vedere Harriet. Non avrebbe giovato all'argomento venire ulteriormente discusso. Era decisa a non essere convinta fin quando poteva dubitare, eppure non aveva alcuna autorità per opporsi alle confidenze di Harriet. Parlarne sarebbe servito solo a irritare. Perciò le scrisse cortesemente, ma fermamente, pregandola che per il momento non venisse a Harfield, ammettendo essere suo convincimento che fosse meglio evitare ogni ulteriore discussione confidenziale di un certo tema, e sperando che se si fossero lasciati passare alcuni giorni prima che si incontrassero di nuovo, eccetto in compagnia di altri, essa era contraria che si ritrovassero loro due sole, sarebbero state capaci d'agire come se avessero dimenticato la conversazione del giorno innanzi. Harriet non si oppose, anzi approvò e si mostrò grata. Questo punto era appena stato fissato allorché arrivò una visita che un poco strappò i pensieri di Emma dall'unico tema che li aveva occupati nel sonno o nella veglia durante le ultime 24 ore. Mrs. Weston, che era andata a far visita alla nuora prescelta e tornando a casa era passata da Harfield, quasi altrettanto per dovere verso Emma che per far piacere a se stessa, allo scopo di riferire tutti i particolari di un colloquio così interessante. Mr. Weston l'aveva accompagnata da Mrs. Bates e aveva fatto molto bene fino all'ultimo la sua parte in questa essenziale visita di riguardo, ma essa, avendo poi potuto persuadere Miss Fairfax a prendere una boccata d'aria con lei, tornava ora con molto di più da dire e molto di più da dire con soddisfazione di quanto non avesse potuto provvedere un quarto d'ora passato nel salotto di Mrs. Bates con tutto l'ingombro di sentimenti imbarazzanti. Essa aveva un po' di curiosità e cercò di trarne il miglior partito mentre la sua amica riferiva. Mrs. Weston era andata a far visita con un bel po' d'agitazione lei stessa e dapprima aveva desiderato di non andare affatto per il momento, di poter invece soltanto scrivere a Miss Fairfax e di rimandare questa visita di cerimonia finché fosse passato un po' di tempo e Mr. Churchill potesse adattarsi all'idea che il fidanzamento divenisse pubblico, poiché, tutto considerato, pensava che una tal visita non potesse venir fatta senza portare a delle chiacchiere. Ma Mr. Weston aveva pensato diversamente. Era in sommo grado di mostrare la sua approvazione a Miss Fairfax e alla sua famiglia, e non immaginava che la visita potesse provocare alcun sospetto, o, se l'avesse provocato, che ciò potesse arrecare conseguenza alcuna. Poiché notizie di questo genere, osservava, andavano sempre attorno. Emma sorrise e sentì che Mr. Weston aveva un'ottima ragione di dire così. Insomma, erano andati e grandissima era stata l'evidente pena e la confusione della signorina. Non era quasi riuscita a spiccicare parola e ogni sguardo e ogni atto avevano mostrato quanto profondamente la coscienza la facesse soffrire. La calma e intensa soddisfazione della vecchia signora e l'estatica gioia della figlia, che era stata anche troppo gioiosa per parlare come al solito, avevano formato una scena gradevole, eppure quasi commovente. Esse erano entrambe così vivamente degne di rispetto nella loro felicità, così disinteressate in ogni sentimento, pensavano tanto a Jane, tanto a tutti e tanto poco a se stesse, che ogni senso di benevolenza andava verso di loro. La recente malattia di Miss Fairfax aveva offerto a Mrs. Weston una buona scusa per invitarla a prendere aria. Dapprima aveva voluto esimersi, ma aveva ceduto alle insistenze. Durante la loro scarrozzata, Mrs. Weston, grazie ai suoi delicati incoraggiamenti, aveva vinto tanto del suo imbarazzo da portarla a conversare di quell'importante argomento. Scuse per il suo silenzio apparentemente sgarbato al primo incontro e le più calde espressioni della gratitudine che essa sentiva sempre verso di lei e Mr. Weston dovettero necessariamente aprire la discussione. Ma una volta che queste effusioni furono messe da parte, esse parlarono un bel po' dello stato attuale e del futuro del fidanzamento. Mrs. Weston era convinta che una tal conversazione aveva dovuto provocare alla sua compagna un enorme sollievo, dacché ogni cosa era rimasta così a lungo chiuso nella sua mente ed era molto soddisfatta di quanto era stato detto in proposito. Circa l'intensità delle sue pene durante tutti quei mesi di segretezza, spiegò Mrs. Weston, è stata energica. Ecco una delle sue espressioni. Non dirò che da quando mi sono fidanzata io non abbia avuto dei momenti felici, ma posso dire di non aver mai conosciuto la benedizione di una sola ora di tranquillità. E il labbro tremante, Emma, ha detto ciò, è stata una testimonianza che io ho sentito in fondo al cuore. Poveretta, disse Emma, essa pensa dunque d'aver avuto torto ad acconsentire a un fidanzamento segreto? Torto, nessuno credo può biasimarla più di quanto essa sia disposta a biasimare se stessa. La conseguenza, ha detto, è stata per me una condizione di pena continua, e così dovrebbe essere, ma con tutta la punizione che può arrecare la cattiva condotta, questa rimane sempre cattiva condotta. La pena non è un'espiazione. Io non potrò mai essere senza biasimo. Ho agito contrariamente a tutto il mio senso dell'onesto, e la fortunata piega che han preso le cose e la bontà di cui ora son fatta segno son ciò che la mia coscienza dice che non dovrebbe essere. Non immaginate, signora, ha proseguito, che io sia stata educata male. Non fate critiche ai principi o alle cure degli amici che mi hanno allevata. L'errore è stato tutto mio. E vi assicuro che con tutta la scusa che sembrano offrire le circostanze presenti, io avrò ancor timore di far sapere la storia al colonnello Campbell. Poveretta, disse Emma di nuovo, allora suppongo essa l'ama immensamente. Deve essere stato solo per attaccamento che essa ha potuto essere indotta a fidanzarsi. Il suo affetto deve aver sopraffatto il suo giudizio. Sì, non dubito che essa gli voglia un gran bene. Ho paura, replicò Emma sospirando, che devo aver spesso contribuito a renderla infelice. Da parte tua, amor mio, è stato fatto con molta innocenza. Ma probabilmente qualcosa di ciò doveva essere nei suoi pensieri quando ha alluso ai malintesi di cui egli ci aveva accennato. Una conseguenza naturale dell'imbroglio in cui si era messa, ha detto, era stata di renderla irragionevole. La coscienza d'aver fatto del male l'aveva esposta a mille inquietudini e l'aveva resa suscettibile e irritabile a un punto che doveva essere stato, che era stato, difficile a lui tollerare. Non ho fatto il debito conto, ha detto, del suo carattere e del suo spirito, il suo spirito delizioso e quella gaiezza, quella scherzosità d'indole che in ogni altra circostanza, son sicura, mi avrebbero costantemente ammagliata, come fecero dal principio. Poi ha cominciato a parlare di te e della gran gentilezza di cui le avevi dato prova durante la sua malattia e con un rossore che mi mostrava come tutto ciò fosse connesso, ma pregata, quando io ne avessi occasione, di ringraziarti. non avrei potuto ringraziarti abbastanza per ogni desiderio e ogni tentativo di farle del bene. Sentiva che tu non avevi mai ricevuto da parte sua un ringraziamento adeguato. Se io non la sapessi ora felice, disse Emma seriamente, come, malgrado ogni piccola ombra della sua scrupolosa coscienza deve essere, non potrei tollerare questi ringraziamenti. Perché, oh Mrs. Weston, se si tirassero le somme del male e del bene che io ho fatto a Jane Fairfax? Ebbene, frenandosi e cercando di essere più vivace, tutto questo va dimenticato. Siete molto gentile di recarmi codesti interessanti particolari. La mostrano in una luce quanto mai vantaggiosa. Son sicura che è molto buona. Spero che sia molto felice. È giusto che il patrimonio sia dalla parte di lui, perché credo che il merito sarà tutto dalla parte di lei. Una tal conclusione non poteva essere lasciata passare senza risposta da Mrs. Weston. Essa aveva una buona opinione di Frank quasi sotto ogni aspetto, e quel che era di più gli voleva molto bene, sicché la sua difesa fu calorosa. Essa parlò con una buona dose di ragione e almeno altrettanto affetto, ma troppe cose aveva da addurre per l'attenzione di Emma, la quale presto se ne partì per Brunswick Square e per Donwell. Dimenticò di tentare di ascoltare. E quando Mrs. Weston terminò con «Non abbiamo ancora ricevuto la lettera che attendiamo tanto ansiosamente, sai, ma spero che venga presta», essa fu obbligata a pensarci su prima di rispondere, e alla fine a rispondere a caso, prima di potersi ricordare che la lettera fosse quella che essi attendevano così ansiosamente. «Stai bene, Emma mia?» fu la domanda di Mrs. Weston sul punto di separarsi. «Oh, perfettamente, io sto sempre bene. Non mancate di mettermi al corrente della lettera il più presto possibile». Le comunicazioni di Mrs. Weston fornirono ad Emma ulteriore alimento per spiacevoli riflessioni, con l'accrescere la sua stima e la sua pietà e il suo senso d'essere stata ingiusta in passato nei riguardi di Jane Fairfax. Si pentiva amaramente di non aver cercato di conoscerla più da vicino e arrossiva dai sentimenti malevoli che certi ne erano stati in qualche misura la causa. Se ella avesse ascoltato i noti desideri di Mr. Knightley, tributando a Miss Fairfax quell'attenzione che le era dovuta in ogni senso, se avesse cercato di conoscerla meglio, se avesse fatto quanto stava in lei per diventarne intima, se avesse cercato di trovare un'amica in lei invece che in Harriet Smith, probabilmente le sarebbero state risparmiate tutte le pene che l'opprimevano adesso. Nascita, talento ed educazione avevano in egual misura indicato l'una come una compagna per lei, da essere ricevuta con gratitudine. E l'altra, che cos'era essa? Supponendo anche che non fossero diventate mai amiche intime, che essa non fosse mai stata ammessa nella confidenza di Miss Fairfax su questa importante faccenda, cosa più che probabile, tuttavia, conoscendola come avrebbe dovuto o come avrebbe potuto, sarebbe stata preservata dagli abominevoli sospetti d'uno sconveniente attaccamento a Mr. Dixon, idea che essa aveva non solo così scioccamente inventata e nutrita lei stessa, ma che aveva diffusa in modo così imperdonabile. Un'idea che essa temeva molto fosse stata fatta argomento di pena effettiva per la delicatezza dei sentimenti di Jane, per via della leggerezza o dell'incuria di Frank Churchill. Di tutti i motivi d'angoscia che avevano oppresso Jane dal momento della sua venuta a Highbury, Emma era convinta d'aver fornita lei stessa il peggiore. Doveva essere stata una perpetua nemica. Non potevano essersi trovati tutte e tre insieme senza che lei avesse pugnalato in mille modi la pace di Jane Fairfax, e a Box Hill, forse, era stata l'agonia d'un'anima giunta al limite della sopportazione. La serata di questo giorno fu molto lunga e melanconica a Hartley. Il tempo aggiunse qualche potè di tetraggine. Sopravvenne una fredda pioggia tempestosa, e non restò traccia di luglio che negli alberi e negli arboscelli che il vento strapazzava, e nella lunghezza del giorno, che non fece che rendere visibile più a lungo sì crudele spettacolo. Il tempo influì su Mr. Woodhouse ed egli poté solo godere d'un tollerabile benessere grazie a un'attenzione quasi incessante da parte della figlia e a sforzi che non le erano mai costati tanto. Ciò la faceva pensare al loro prima tête-à-tête la sera del matrimonio di Mrs. Weston. Ma allora era arrivato Mr. Knightley subito dopo il tè e aveva dissipato ogni fantasticheria malinconica. Ahimè, tali deliziose prove dell'attrazione di Harfield, quali recava questo genere di visite, potrebbero in breve non esserci più. Il quadro che ella si era fatto allora delle privazioni dell'inverno che si avvicinava si era dimostrato errato. Nessun amico li aveva abbandonati, nessun piacere era stato perduto, ma i pronostici presenti, essa temeva, non sarebbero stati contraddetti così. La prospettiva che ora le si schiudeva dinanzi era minacciosa a un grado che non poteva interamente dissiparsi, che rischiava di non venire schiarita neanche per un poco. Se avveniva tutto quel che poteva avvenire nel cerchio delle sue amicizie, Harfield non poteva non essere relativamente abbandonato e lei sarebbe stata lasciata ad animare il padre soltanto con lo spirito di una la cui felicità era rovinata. Il bambino che sarebbe nato a Randalls avrebbe costituito là un legame perfino più caro di lei stessa. E il cuore e il tempo di Mrs. Weston ne sarebbero stati presi. Essi l'avrebbero perduta e probabilmente, in gran parte, avrebbero perduto anche suo marito. Frank Churchill non sarebbe più tornato tra loro e Miss Fairfax, era ragionevole supporlo, avrebbe cessato presto di appartenere a Highbury. Si sarebbero sposati e stabiliti a Enscombe o nelle sue vicinanze. Tutti quelli che erano buoni sarebbero stati sottratti. E se a queste perdite si doveva aggiungere anche quella di Donwell, che società allegra o intelligente sarebbe rimasta a loro portata? Che Mr. Knightley non venisse più lì per passare una piacevole serata, che non facesse più una capatina a tutte le ore, come se avesse sempre intenzione di scambiare la sua casa con la loro. Come poteva tollerarsi ciò? E se dovesse essere perduto per loro a causa di Harriet, se da ora innanzi si dovesse ritenere che trovasse nella compagnia di Harriet quanto desiderava, se Harriet dovesse essere l'eletta, la prima, la più cara, l'amica, la moglie alla quale si sarebbe rivolto per tutto ciò che la vita ha di più bello, che cosa avrebbe potuto accrescere l'infelicità di Emma se non la riflessione, non mai molto lontana dalla sua mente, che tutto questo era stato opera sua? Quando il rammarico diventava così acuto, Emma non poteva trattenersi da un sussulto o da un grave sospiro, o magari dal passeggiare su e giù per la stanza per alcuni secondi. E l'unica fonte da cui poteva derivare un qualche conforto, un po' di calma, era la risoluzione di comportarsi meglio e la speranza che, per inferiore in spirito e gaiezza che potessero essere l'inverno seguente e ogni inverno futuro della sua vita, in confronto di quello passato, l'avrebbero trovata più assennata, più progredita nella conoscenza di se stessa e le avrebbero lasciato meno da rimpiangere quando fossero trascorsi. Il tempo continuò, assai simile la mattina seguente, e la stessa solitudine, la stessa malinconia pareva regnare a Harfield. Ma nel pomeriggio si schiarì. Il vento si cambiò in uno più mite. Le nubi furono spazzate via. Apparve il sole. Fu di nuovo estate. Con tutta l'animazione che dà un tal cambiamento, Emma decise di andare all'aria aperta al più presto possibile. non le era mai parsa così attraente la squisitezza della vista, dell'odore, della sensazione della natura, calda e brillante dopo la tempesta. Essa anelava alla serenità che quelle cose avrebbero potuto arrecare a grado, ed essendo capitato subito dopo pranzo Mr. Perry con un'ora libera da dedicare a suo padre, Emma non perse tempo a correre al vivaio. Là, con gli spiriti rinfrescati e i pensieri un po' sollevati, aveva fatto qualche giro, quando vide Mr. Knightley passare per la porta del giardino e venire verso di lei. Questo era il primo annunzio del suo ritorno da Londra. Emma aveva pensato a lui un momento prima, come se fosse senza dubbio 16 miglia distante. Non ci fu tempo che per un rapidissimo aggiustamento mentale. Essa doveva essere posata e calma. Mezzo minuto dopo erano insieme. I «come state?» furono tranquilli e repressi da ambo le parti. Essa chiese dei loro comuni amici. Stavano tutti bene. Quando li aveva lasciati? Soltanto quella mattina. Doveva aver fatto una cavalcata sotto la pioggia. Sì. Voleva passeggiare con lei, ella scoprì. Aveva un momento prima fatto capolino nella sala da pranzo. Siccome lì non c'era bisogno di lui, preferiva rimanere fuori. Emma pensò che egli non aveva l'aria lieta, ne parlava lietamente. E la causa prima ne era forse, come le suggerivano i suoi timori, che egli poteva aver comunicato i suoi progetti al fratello ed era rimasto male per modo in cui erano stati accolti. Camminarono insieme. Egli taceva. Emma pensò che egli la guardasse sovente e cercasse di ottenere una vista del suo volto più piena di quanto tornava lei comodo di offrirgli. E questa supposizione produsse un altro timore. Probabilmente egli voleva parlarle del suo attaccamento a Harriet. Forse non aspettava che d'essere incoraggiato per incominciare. Essa non si sentiva, non poteva sentirsi, di portare il discorso su un simile tema. Lui doveva pensarci interamente da sé. Eppure essa non poteva tollerare quel silenzio. In lui era proprio innaturale. Emma rifletté, si decise e cercando di sorridere cominciò. Sentirete delle notizie ora che siete tornato che vi sorprenderanno alquanto. Davvero? Disse egli calmo e guardandola. Di che genere? Oh, del miglior genere al mondo, un matrimonio. Dopo aver atteso un momento come per accertarsi che essa non voleva dire altro, rispose. Se volete alludere a Miss Fairfax e a Frank Churchill, lo so di già. Com'è possibile? Esclamò Emma, volgendo verso lui le sue guance imporporate, poiché, mentre parlava, le venne in mente che egli poteva aver fatto una visita da Mrs. Goddard strada facendo. Ho ricevuto stamani alcune righe da Mr. Weston sulle faccende della parrocchia e alla fine mi ha riferito in succinto ciò che era successo. Emma si sentì allargare il cuore e poté dir subito, con più calma, «Voi forse siete rimasto meno sorpreso di chiunque di noi, perché avevate avuto i vostri sospetti. Non ho dimenticato che una volta cercaste di mettermi in guardia. Vorrei avervi ascoltato, ma», abbassando la voce con un grave sospiro, «pare che io sia destinata a non veder niente». Per qualche momento non fu detta parola, ed essa non sospettava d'aver provocato alcun particolare interesse quando si sentì attirare il braccio sotto quello del compagno e se lo sentì premere contro il cuore di lui e lo udì dire in un tono di profonda sensibilità a bassa voce «Il tempo, mia carissima Emma, il tempo sanerà la ferita. Il vostro eccellente giudizio, il da fare che vi date per amore di vostro padre, so che non vi lascerete». Il braccio le venne premuto di nuovo, mentre egli aggiungeva con accento più rotto e sommesso i sensi della più calda amicizia, sdegno, abominevole mascalzone, e in tono più alto e fermo concluse con Presto se ne sarà andato. Presto saranno nello Yorkshire. Mi dispiace per lei. Meritava un destino migliore. Emma lo comprese e appena poté riaversi dal moto di piacere suscitato da si tenera premura rispose: «Voi siete molto gentile, ma vi sbagliate e io debbo farvi vedere giusto. Io non ho bisogno di quel genere di compassione. La mia cecità circa quanto stava accadendo mi indusse ad agire nei loro riguardi in un modo di cui dovrò vergognarmi sempre, e scioccamente fui tentata a dire e fare molte cose che ben possono espormi a spiacevoli congetture, ma non ho altro motivo di rammarico se non di non aver saputo il segreto prima». «Emma!» esclamò lui guardandolo intensamente. «Dite davvero?» Ma frenandosi. «No, no, vi capisco, perdonatemi. Quello che dite basta farmi lieto. Egli non è oggetto di rammarico proprio, e non passerà molto tempo, spero, prima che ciò venga riconosciuto, non soltanto dalla vostra ragione. Fortunata che il vostro affetto non ne sia rimasto più preso. Vi devo confessare che dai vostri modi io non riuscii ad appurare il grado di ciò che sentivate. Potevo solo essere certo che c'era una preferenza, e una preferenza che io non ho mai potuto credere che egli meritasse. Egli fa vergogna al nome d'uomo e deve ricevere in premio quella soave fanciulla? Jane, Jane, voi sarete una disgraziata». «Mr. Knightley», fece Emma, cercando di rispondere con brio, ma in realtà confusa, «io mi trovo in una situazione straordinaria. Non posso lasciarvi continuare nel vostro errore, eppure, forse, dal momento che i miei modi hanno creato una tale impressione, ho altrettanta ragione di vergognarmi di confessare che non ho mai voluto bene alla persona di cui parliamo, quanto sarebbe naturale che una donna sentisse confessando proprio l'opposto, ma la verità è che non l'ho amato mai». Egli l'ascoltava in perfetto silenzio. Ella desiderava che parlasse, ma egli non lo faceva. Ella immaginò di dover dire di più prima di aver diritto alla sua clemenza, ma era duro essere obbligata ad abbassarsi ancora nella sua opinione. Tuttavia proseguì: «Ho ben poco da dire in difesa della mia condotta. Fui tentata dalle sue attenzioni e lasciai trasparire il mio piacere. Una vecchia storia, probabilmente un caso comune, né più né meno di quanto è successo a centinaia di donne prima di me. Eppure questo può non servire a rendere la cosa più scusabile in una che si picca di intelligenza come me. Molte circostanze han favorito la tentazione. Egli era il figlio di Mr. Weston. Era continuamente qui, lo trovavo sempre molto piacevole e, in breve, per quanto io mi industri di gonfiare le cause, alla fine confluiscono tutte in questa. La mia vanità si sentì adulata e io accettai le sue attenzioni. Da ultimo, però, di fatto, da qualche tempo, io non ho attribuito ad esse alcun significato. Le ho ritenute un'abitudine, un vezzo, nulla che richiedesse serietà da parte mia. Egli mi ha ingannata, ma non m'ha fatto del male. Non mi son mai sentita attaccata a lui, ed ora posso capire abbastanza il suo contegno. Egli non ha mai desiderato che io mi attaccassi a lui. Non era che uno schermo per nascondere la sua reale situazione con un'altra. Suo fine era di accecare tutti quelli che lo circondavano. E nessuno, io credo, poteva essere accecato più efficacemente di me stessa, eccetto che io non sono stata accecata, che la mia buona fortuna ha voluto che, insomma, in un modo o nell'altro, non correvo pericolo da parte sua». Aveva sperato una risposta a questo punto, qualche parola che le dicesse che la sua condotta era almeno comprensibile, ma egli rimase muto e, a quanto lei poté giudicare, sprofondato nei pensieri.